Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Più che il fine vita, io mi preoccupo della vita. A me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo. Quindi più che di una buona morte, su cui ragioneremo, di una buona vita, che a milioni di italiani purtroppo non è garantita in questo momento. Però aspettiamo Renzi. Quando smette di smanettare su Facebook, se ci dice di che cosa si occuperà il Senato, noi commenteremo quello che farà il Senato. Un cittadino deve essere libero di scegliere, però io preferisco occuparmi di quelli che stanno vivendo e stanno vivendo male. E in Italia io ricordo che ci sono 4 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Parole del leader della Lega Salvini, che avete appena sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che subito hanno suscitato polemica, no? Sulla questione del fine vita. Lui ha detto: preferisco parlare dei vivi che non dei morti. C'è stata l'indignazione del PD con la esponente Deborah Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, che ha chiesto a Salvini di rispettare i malati. Di Battista, Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, che ha scritto: serve questa legge ai vivi, si può fare in 5 minuti. E sarà destinata ancora a far discutere, perché sapete che lì ferma la legge sul progetto di legge sul biotestamento del suo iter parlamentare, l'incagliato. Non si capisce se riuscirà a votare entro questa legislatura oppure no. Parleremo però stasera di altre vicende, la tragedia di Rigopiano, perché dall'informativa relativa all'inchiesta su quella tragedia di Rigopiano dello scorso 18 gennaio 2017 sono emerse anche delle intercettazioni molto sgradevoli, dove ci sono delle risate, dove si capisce che insomma non c'era davvero la cognizione del rischio che correvano le persone, che poi sono morte, 29 morti. Ne parleremo, così come ci occuperemo di questa maxi operazione a Ostia. Finalmente è intervenuto lo Stato. E poi c'è una svolta nella morte di una studentessa di 20 anni che era morta, una ragazza genovese che era morta nel 2011 a Palma di Maiorca, cadendo dal sesto piano di un hotel. Finora è stato archiviato come suicidio, invece sembra che stesse scappando, la povera ragazza, da due ragazzi italiani conosciuti il giorno prima, che avevano tentato di violentarla. Tante notizie anche oggi qui a Effetto Notte, come sempre. Siamo insieme un'ora, quindi avete modo di scrivere i vostri commenti, se volete, sui vari fatti che approfondirò con gli ospiti, sulle altre notizie, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure c'è il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Prima di tutto però vi racconto in sintesi che giornata è stata. Corea del Nord, Kim torna a sfidare il mondo e lancia un nuovo missile balistico. Il Giappone capta segnali radio anomali. La manovra economica, il bonus bebè diventa stabile ma dimezzato a 40 euro al mese dal 2019, via il super ticket per i redditi bassi. Il dibattito sul biotestamento, scoppia la polemica sulle parole di Salvini che dice: mi occupo dei vivi non dei morti, insorge il PD, e Di Battista di 5 Stelle dice: la legge serve ai vivi, si può fare in 5 minuti. La tragedia di Rigopiano, nelle intercettazioni, dopo la richiesta d'aiuto, risate al telefono un'ora prima del disastro e una battuta: c'è la spa, allora facciamo il bagno. Maxi operazione a Ostia, controlli e perquisizioni, la ricerca di armi e droga e alcuni fermi. La studentessa che morì a Maiorca cadendo dal sesto piano di un hotel, a giudizio due suoi amici, secondo i magistrati stava scappando da un tentativo di stupro. Brexit, secondo il Daily Telegraph c'è accordo sul conto del divorzio con l'Unione Europea, si potrebbe chiudere tra 45 e 55 miliardi di euro. Calano ancora le nascite in Italia, in 8 anni 100.000 in meno, matrimoni però di nuovo in ripresa. E partiamo quindi da una notizia di poco fa, dall'ennesima provocazione del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Dopo quasi 45 giorni dall'ultima provocazione, la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. A darne notizia è stata l'agenzia sudcoreana Yonhap, confermando così i sospetti del governo giapponese, che aveva riferito di avere captato dei segnali radio che potevano essere associati a preparativi di un nuovo test missilistico di Pyongyang. L'ultima volta fu lo scorso 15 settembre. In risposta a questo nuovo lancio, le autorità militari sudcoreane preparano un'esercitazione missilistica per un raid di precisione. E andiamo sulle questioni italiane, con la manovra economica e con le importanti novità introdotte nelle ultime tappe prima dell'arrivo in aula. Dai super ticket sanitari al bonus bebè alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, tante le novità dell'ultima ora inserite nella manovra ormai alle battute finali in commissione bilancio del Senato. L'assegno per i nuovi nati ci sarà per sempre, ma solo per il primo anno del bimbo e dal 2019 è dimezzato, 40 euro al mese per un massimo di 480 euro l'anno. Stop ai super ticket sanitari per tutti i minori e per i redditi bassi, con ISE fino a 15.000 euro, con uno stanziamento di 240 milioni in un triennio. Nasce poi il fondo di ristoro finanziario con una dotazione di 25 milioni l'anno per il 2018 e 2019 per i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto dalle banche. Disco verde anche alla sospensione dei mutui a Ischia. La manovra approda domani nell'aula del Senato. Intanto arriva il plauso dell'Ocse, un provvedimento che rafforza la crescita inclusiva e consente la riduzione del debito, scrive l'Organizzazione di Parigi, che rivede al rialzo le stime del PIL per l'Italia, portandole a più 1,6 per quest'anno e più 1,5 per il 2018, ma che nello stesso tempo avverte il prossimo governo non deve mollare le riforme perché rallentarne il ritmo farebbe deragliare la ripresa. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Intanto i medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale hanno annunciato uno sciopero generale di 24 ore per il prossimo 12 dicembre proprio contro la legge di bilancio e per lo stallo del rinnovo del contratto di lavoro. Anna Marino ha sentito Carlo Palermo, vice segretario nazionale vicario del principale sindacato dei medici ospedalieri. Dopo 8 anni di assenza di un contratto, il sistema ha bisogno di un nuovo governo. E solo il contratto può dare questo nuovo sistema di governo dell'organizzazione sanitaria, ma è soprattutto la tenuta del sistema che ci preoccupa, perché noi abbiamo una condizione di carenza di risorse, carenza di personale che incomincia a preoccuparci. Per quanto riguarda invece il sostegno ai nuovi nati, è diventato strutturale, è diventato stabile proprio nel giorno della diffusione dei nuovi dati Istat preoccupanti sul calo della natalità. Nel 2016 in Italia sono nati circa 474.000 bambini, oltre 12.000 in meno rispetto al 2015, 100.000 in meno dal 2008. Così l'Istat mette nero su bianco quello che un po' ci aspettavamo: la popolazione invecchia, le donne in età riproduttiva diminuiscono e non solo si fanno meno figli, ma sono tante le coppie che non ne hanno. I primi figli passano infatti dai 283.000 del 2008 ai 227.000 del 2016. Il calo dei nuovi nati, scrive l'Istituto di Statistica, è attribuibile per lo più alle coppie di genitori entrambi italiani. In realtà dal 2012 diminuiscono anche i nati da genitori stranieri. Contestualmente i matrimoni toccano un minimo nel 2014 per poi risalire e la fecondità scende ancora. Oggi le donne hanno in media 1,34 figli a testa, le italiane 1,26. Osservando le generazioni si va dai 2 figli delle nate nel secondo dopoguerra agli 1,44 della generazione del 76. Di pari passo aumentano le donne senza figli dall'11,1% della generazione del 50 al 21,8 del 76. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica e il dibattito sul biotestamento che fa discutere, in particolare con l'affondo di Salvini. La legislatura sembra finita, appena approvata la legge di bilancio, invece a sorpresa rispunta il tema del biotestamento. Non mancano poi le polemiche con Matteo Salvini della Lega, che allontana la questione con parole poi contestate. Più che il fine vita io mi preoccupo della vita. A me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo, quindi più che di una buona morte, su cui ragioneremo, di una buona vita, che a milioni di italiani purtroppo non è garantita in questo momento. A spingere sul biotestamento, oltre al PD, anche MDP, che pur avendo detto no ad un'alleanza con i Dem, reputa la questione fondamentale insieme allo Ius Soli, così per Luigi Bersani. Non mi piace assolutamente questa classifica. Allora il biotestamento oppure lo Ius Soli? Ma dico, stiamo scherzando? Bisogna farli tutte e due. Favorevole anche il Movimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista replica a Salvini: il biotestamento serve ai vivi, è un diritto sacrosanto. Mentre Alessia Morani del PD boccia la frase del leader della Lega come crudele e senza rispetto per la sofferenza delle persone. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi tra le notizie principali di oggi si torna a parlare della tragedia di Rigopiano, perché nelle 119 pagine dell'informativa della squadra mobile di Pescara, che contiene le intercettazioni di tutto il periodo dell'inchiesta, della richiesta di soccorsi culminato nella tragedia dell'hotel a Farindole, provincia di Pescara, che costò, vi ricordo, la vita a 29 persone, nello scorso 18 gennaio ci sono anche delle risate in questa informativa, in queste intercettazioni, una battuta: se dobbiamo liberare la spa al limite ci andiamo a fare pure il bagno, e poi una risata. Dall'informativa emerge un quadro, insomma, di quei giorni di caos nell'approccio all'emergenza nei canali istituzionali, che ha avuto il suo picco tra il 17 e il 19 gennaio, e sono 23 gli indagati nell'inchiesta, e poi torneremo a parlarne tra poco. C'è poi la maxi operazione oggi a Ostia delle forze dell'ordine, che ha visto perquisizioni anche nel palazzo dove viveva Roberto Spada del clan Spada, prima dell'arresto per la testata a un giornalista della RAI. Nel corso dell'operazione sarebbero stati trovati e sequestrati armi e droga. Fuori le mafie da Roma, bene, maxi operazione a Ostia, ha twittato la sindaca di Roma Raggi. Poi ne parliamo con chi conosce bene quella situazione. All'estero, accordo di massima sulla Brexit fra Gran Bretagna e l'Unione Europea sulla questione preliminare chiave del conto del divorzio, lo scrive il Daily Telegraph, che è il giornale britannico filoconservatore, sostenendo che l'Unione Europea avrebbe abbassato le pretese da 60 miliardi di euro a una cifra compresa tra 55 e 45 miliardi, e che il nodo sarebbe stato sciolto durante un'ultima sessione di colloqui sulla Brexit dopo un chiarimento cruciale lunedì fra la prima ministra britannica Theresa May e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. E per Gentiloni in Africa, ultima tappa in Ghana prima del vertice tra Unione Europea e Unione Africana di domani. L'Italia e il Ghana festeggiano ormai 60 anni di rapporti diplomatici, sottolinea il premier Gentiloni incontrando il presidente Nana Akufo-Addo. Questo paese, aggiunge, è un esempio per tutta l'Africa per la sua stabilità e democrazia. Siamo anche vicini in molte azioni di peacekeeping. Ma c'è anche il non trascurabile legame economico. L'ENI, innanzitutto, che ha investito nel paese 7 miliardi di dollari, ma anche il coinvolgimento per lo sviluppo della rete ferroviaria e in futuro l'accensione di una linea di credito di 25 milioni destinata a macchinari per le PMI ghanesi. Crediamo che le nostre relazioni con l'Africa non possano essere soltanto collegate alla gestione delle migrazioni, ha scritto Gentiloni al quotidiano ghanese Daily Graphic, ma debbano essere basate su sostegno all'educazione e alla creazione di lavoro. Indirizzi che il premier sosterrà domani al quinto vertice Unione Europea-Unione Africana in Costa d'Avorio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Migranti, coi nuovi dati dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 3.000 sono morti nel Mediterraneo dall'inizio del 2017 mentre tentavano di raggiungere l'Europa via mare. La media dal 1 gennaio del 2017 al 26 novembre è di quasi 10 morti al giorno. E poi in Messico, una procuratrice che stava indagando sulle donne stuprate uccise nello stato orientale di Veracruz è stata assassinata ieri a colpi d'arma da fuoco, stando a quanto riferito dalle autorità locali. Yendi Castellanos, 35 anni, capo della procura speciale per i reati sessuali e crimini contro la famiglia dello stato di Veracruz, è stata trovata colpita da diversi proiettili all'interno della sua autovettura. E va detto che lo stato di Veracruz, affacciato sul Golfo del Messico e con porto sicuro per i trafficanti internazionali di stupefacenti, è un luogo dove ci sono costantemente omicidi, ma diciamo in particolare ci sono assassini di donne un po' in tutte le regioni del Messico. Il record è per la città di Ciudad Juárez, al confine tra Messico e Stati Uniti, dove nel corso degli anni, e continuano questi omicidi, sono state uccise centinaia di donne. Il viaggio del Papa in Birmania, nella sua seconda giornata nel paese asiatico, Francesco ha avuto i primi incontri istituzionali, ha chiesto rispetto di ogni etnia e dell'ordine democratico. Nell'atteso incontro con la leader democratica birmana Aung San Suu Kyi, la premio Nobel ringrazia il pontefice e gli dice che la sua presenza dà fiducia in una possibilità di pace. Poi di nuovo in Italia, con la vicenda della studentessa che morì nel 2011 a Maiorca cadendo dal sesto piano di un hotel, a giudizio due giovani di Arezzo conosciuti il giorno prima della sua morte. Secondo i magistrati lei stava cercando di scappare da un tentativo di stupro, in questo caso appunto erano coinvolti questi due giovani, parleremo poi con il legale della famiglia. Una vicenda di cronaca adesso da Milano, con la storia di una lite in strada e una reazione violentissima di un automobilista. Gli ha rotto il naso e staccato a morsi il lobo di un orecchio. La vittima è un tassista di 48 anni, l'aggressore un automobilista 29enne pregiudicato, protagonisti di una lite brutale poco dopo le 7 di mattina a Milano, zona Stazione Centrale. All'origine della lite una discussione per ragioni di viabilità, pare un parcheggio conteso. Il 29enne ha aggredito prima verbalmente e poi a calci, pugni e morsi il tassista, trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda e dimesso con una prognosi di 30 giorni. L'aggressore, visitato in codice verde al Fate Bene Fratelli, è stato poi arrestato per lesioni gravissime. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere ancora, guai per il produttore americano, produttore cinematografico Harvey Weinstein, produttore di Hollywood al centro di uno scandalo di molestie sessuali, ora accusato anche di sfruttamento della prostituzione in una causa presentata a New York. L'attrice inglese Cadian Nobel sostiene che la società di Weinstein ha violato le leggi federali sul traffico sessuale, facilitando consapevolmente i viaggi all'estero del produttore, durante i quali lui avrebbe reclutato attrici per incontri sessuali forzati dietro promessa di lavoro. Direi che il riassunto della giornata si conclude qui, in modo che adesso aggiorniamo chi sta viaggiando. Intanto continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. E poi cominciamo con i primi ospiti tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante notizie come sempre tutte le sere, da lunedì al venerdì, con me Roberta Giordano qui Effetto Notte. 60 minuti fitti appunto di fatti, di approfondimenti. Vi ho appena riassunto la giornata, poi sapete che ogni tanto vi ricordo anche quali sono i fatti principali per chi fosse un po' ritardatario e non avesse acceso puntualmente alle 21. E vi ricordo che potete interagire con due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale potete scrivere le vostre riflessioni, osservazioni, così come il numero per WhatsApp ed SMS 349-238-6666, naturalmente sui fatti principali della giornata. Dice e scrive Igor: adesso aspettiamo l'arrivo della stella cometa e rischiamo di vedere arrivare un missile di Kim Jong-un. A questo proposito ha parlato Trump, e c'è un'agenzia che dice: gli Stati Uniti, tracciando il lancio del missile nordcoreano, che è stato lanciato appunto la notizia di poco fa, ritengono che si sia trattato di un missile balistico intercontinentale, ha reso noto il Pentagono, quindi addirittura che viaggia da un continente all'altro. E a questo proposito c'è Walter che scrive: Kim Jong-un sta portando il mondo verso una guerra che potrà essere nucleare, non possiamo farci niente. Poi invece Fabio, sulle parole che hanno destato polemiche di Salvini sul biotestamento, dice: Salvini su questo tema non dice niente di particolare, ma tutti si buttano sopra perché risulta un ottimo argomento di distrazione di massa. Insomma, è un argomento delicato, quindi bisogna anche stare attenti un po' a quello che si dice, tanto che Salvini poi ha un po' ritrattato. Adesso però, tra poco, cominciamo da un altro tema, parliamo di nuovi sviluppi che riguardano l'inchiesta su Rigopiano, però queste sono le notizie principali. Corea del Nord, Kim torna a sfidare il mondo, lancia un nuovo missile balistico, il Giappone capta segnali radio anomali, la manovra economica, il bonus bebè diventa stabile ma dimezzato, via il super ticket per i redditi bassi. Il dibattito sul biotestamento, come dicevamo, scoppia la polemica sulle parole di Salvini, che ha detto: mi occupo dei vivi non dei morti, insorge il PD, e Di Battista dei 5 Stelle dice: la legge serve ai vivi e si può fare in 5 minuti. La tragedia di Rigopiano, ci torneremo tra pochissimo, maxi operazione a Ostia delle forze dell'ordine contro i clan, e poi la studentessa che morì a Maiorca cadendo dal sesto piano di un hotel, c'è una svolta, a giudizio due suoi amici. E poi calano ancora le nascite in Italia, in 8 anni 100.000 in meno, in compenso i matrimoni sono di nuovo in ripresa. Ne avevamo parlato, eravamo tornati a parlare giusto la settimana scorsa della tragedia di Rigopiano, dell'hotel Rigopiano di Farindola in Abruzzo, in provincia di Pescara, dello scorso 18 gennaio, in cui morirono 29 persone. Ne avevamo parlato la scorsa settimana perché c'era la novità di questi ulteriori 23 indagati. Le indagini in realtà seguono vari filoni: l'inchiesta sulle concessioni per un resort che non doveva essere lì dov'era, le indagini relative al piano Valanghe, che non era stato approntato in un territorio decisamente a rischio, e l'inchiesta sui soccorsi inadeguati, sui ritardi. E oggi si aggiunge un nuovo elemento legato ai soccorsi, quello delle intercettazioni. Ne parliamo con Fabio Tonacci, giornalista di Repubblica. Ciao Fabio, buonasera, grazie di essere qui. Buonasera, ciao. Fabio, c'è una certa gravità, no, in queste intercettazioni, perché da lì ulteriormente si capisce il momento di caos totale, di mancanza di coordinamento dei soccorsi, di consapevolezza davvero del rischio reale, no, che c'era, si stava correndo. Esattamente, quello che emerge da questo mare di intercettazione, sono intercettati praticamente tutte le conversazioni che ha avuto il dirigente della provincia responsabile della viabilità, quindi quello che stava coordinando dove mandare le turbine di spazzaneve, insomma, quindi personaggio chiave, no? Quel 18, lui era sotto intercettazione per un'altra indagine, quindi per quello oggi abbiamo tutte queste frasi, queste parole. E ovviamente che cosa dimostrano? Dimostrano due cose fondamentalmente. La prima è il caos di quelle ore. C'è anche da dire che, non so se vi ricordate, c'era un'emergenza neve che durava da 3 giorni, c'era tre quarti della provincia di Pescara era sotto la neve, arrivavano false allarme, insomma era oggettivamente una situazione difficile. Poi c'erano state le scosse di terremoto, no? 4 terremoti. Ogni sindaco che chiamava, lì c'è anche una chat interna dei sindaci, ogni sindaco che chiamava e chiedeva interventi per il proprio comune perché aveva le persone isolate, le persone fuori dalla casa, eccetera. Quindi il primo elemento è il grande caos. Il secondo elemento che viene fuori da alcune intercettazioni che, è bene sottolineare, non possono essere paragonate alle risate del terremoto. Vi ricordate i due imprenditori che la notte dopo il terremoto dell'Aquila si fregavano le mani e ridevano? Esatto. Non è questo caso qua, questo bisogna dirlo, però state le cose. Però che cosa succede? Che succede che un dipendente dell'ANAS parla con questo dirigente della provincia di Pescara, gli viene chiesto a questo dipendente dell'ANAS di arrivare fino a Rigopiano, ma prima della valanga. Okay, un'ora prima della valanga, quindi gli viene chiesto: ma se tu potessi andare fino lassù ce la faresti? Questo signore si trova da tutt'altra parte dell'Abruzzo, ha tipo fatto 24 ore di fila ai comandi della turbina e dice: guarda, mi ci vuole una giornata per arrivare fino in cima, se poi arrivo lassù poi faccio anche il bagno alla spa. Okay? Questo era il tono della cosa. Ovviamente che cosa dimostrano queste tipo di telefonate? Dimostra una cosa fondamentale in questa storia, cioè che in tutta la provincia di Pescara il 18 gennaio nessuno aveva la percezione che l'hotel Rigopiano fosse a rischio di qualcosa, nessuno. Tutte quelle cose, quelle telefonate che si sentono, no? L'avrete sicuramente trasmesse anche voi, le telefonate, gli imbarazzi, la sottovalutazione dei pericoli, tutto questo c'è stato, sì. È vero, ma nessuno in quel momento là credeva o pensava o aveva solo anche l'immaginazione di pensare che potesse capitare una valanga a Rigopiano. Quel giorno Rigopiano è un hotel a 4 stelle dove sono isolate 40 persone, ma tutto sommato la percezione che hanno da Pescara è che si trovino in un luogo sicuro, perché l'hotel è nuovo, è fatto di cemento armato, quindi se anche arriva un'altra scossa non dovrebbe essere quello il problema. Quindi nella lista delle priorità degli interventi, eventi proprio sulle strade, tra turbine, spazzaneve, viene messo in fondo alla lista, perché nessuno pensa che ci possa capitare una valanga lì. E qui si arriva al vero problema di tutta questa storia di Rigopiano. La strage di Rigopiano, 29 persone 29 morte, persone. Inizia nel 1992, quando la regione Abruzzo fa una legge regionale in cui dice, impone a se stessa fondamentalmente: facciamo una carta del rischio valanghe, che suona molto burocratico, ma in realtà è molto semplice. Significa segnare sulla cartina, sulla mappa, quali sono i punti a rischio valanghe. Questa cosa non è mai stata fatta, nonostante tutti gli anni passati, 25 anni, non è mai stata fatta. Senza quel documento lì, è chiaro che non si ha la mappatura e il controllo della situazione. Quindi, ma questo ha avuto due conseguenze fondamentali in questa storia. La prima è che hanno dato ai proprietari del piccolo hotel Rigopiano, gli hanno dato il permesso per ampliarsi, per fare una spa, per diventare un hotel di lusso nel 2007. Secondo, il sindaco di Farindola, dove ci sta l'hotel Rigopiano, tecnicamente non aveva nemmeno lo strumento per decidere se evacuare o no, se sgomberare, cioè non so se capite. Sì, è molto lontana, sono molto lontane le origini, esatto, di questa tragedia. Esattamente. Ma vi dico anche un'altra cosa che deve far riflettere: hanno trovato i soldi e hanno cominciato a fare questa valanga, questa carta delle valanghe, del rischio valanghe, un mese dopo la tragedia di Copiano. Leggevo tra l'altro che sono in arrivo mezzi antinevi in Abruzzo, turbine, pale, frese acquistate da enti e da banche, insomma, diciamo, corrono a riparo certo, un po' tardi. Tutto dopo. Ma ce ne sono tante, sono state tante le decisioni prese dalle istituzioni in quel momento che non sono andate bene. Ci sono state delle situazioni, si evince dalle intercettazioni, in cui si sono praticamente persi una turbina, c'era un'altra turbina ma non c'era il pilota, hanno mandato una turbina in un posto, poi si sono resi conti che era inutile perché erano stati chiamati dal sindaco che aveva le 3-4 persone fuori casa. Il caos totale. Esatto, quindi i dati sono due, il caos e anche questa sottovalutazione, mancanza di peggio. Sì. Neanche si immaginavano che cosa stava succedendo. Era un rischio non percepito, perché nessuno negli ultimi 25 anni aveva fatto quello che doveva essere fatto per evitare questa tragedia. Lì nasce la storia, cioè la storia, diciamo, di investigativa. Ed è per quello che non bisogna mai perdere di vista, perché se poi andiamo a cercare le telefonate che col senno di poi fanno, diciamo, rabbrividire, ne troviamo diverse, ma ricordatevi che sono sempre persone che non sanno niente di quello che è successo e non sanno niente di quello che può succedere, che è la cosa grave a mio giudizio, come spesso in Italia. Grazie Fabio Tonacci della Repubblica. Grazie Fabio, ciao, buona grazie serata. Ciao e buon lavoro. Adesso cambiamo argomento. E parliamo del caso di Martina Rossi. Non so, qualcuno di voi lo ricorderà, la studentessa genovese di 20 anni che il 3 agosto del 2011 morì a Palma di Mallorca precipitando dal sesto piano di un hotel, dell'hotel Sant'Anna. Due giovani di Arezzo, adesso c'è stata questa svolta, perché due giovani di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati rinviati a giudizio per quella morte. Ci sono infatti degli indizi gravi per quanto riguarda la morte di Martina Rossi, che non fu suicidio, come invece decisero evidentemente archiviando il caso i magistrati spagnoli, stava disperatamente, secondo la procura di Arezzo, stava disperatamente cercando di fuggire da un tentativo di stupro. E allora ne voglio parlare di questa vicenda con Luca Fanfani, che è legale dei genitori di Martina Rossi. Buonasera avvocato. Buonasera dottoressa, buonasera a lei. Avvocato, intanto le farei sentire il commento che ha fatto subito il papà di Martina Rossi, che è Bruno Rossi, sentiamolo. Un passo avanti. Vi posso garantire che non è stato semplice, ecco, complessivamente, ecco, però voglio dire, ecco, forse è una piccola, ecco, è un inizio di un percorso, ecco, che continuerà, non lo so, ecco, fin quando avremo la forza di tenerlo in piedi e di riuscire a arrivare in fondo. Meno male che ci sono genitori che cercano giustizia, che cercano la verità, che ci sono magistrati anche che li ascoltano, e poi c'è anche, bisogna dire, chi l'ha visto, questo programma di Rai 3 che spesso a volte si sostituisce anche, no, a investigatori, che ha fatto passare un video in cui questi due giovani, quando erano in questura lì in Spagna, se non sbaglio, avvocato Fanfani, esultarono perché erano stati appena interrogati, avevano capito che nell'autopsia non avevano rilevato gli inquirenti delle tracce di violenza sessuale, no? Si tratta di un video che è relativo ad un'intercettazione ambientale svolta dalla polizia di Genova, quindi quando furono sentiti come testimoni a Genova. A Genova, sì, perché la ragazza è di Genova. Sì, assolutamente. Ed è uno, è quel passaggio di quell'intercettazione ambientale, è senz'altro uno degli elementi probatori che poi potranno essere evidenziati anche nel corso del giudizio. Oggi abbiamo ottenuto, sentivo le parole che aprono il cuore del signore Rossi, del mio assistito, e oggi abbiamo effettivamente ottenuto quel diritto che gli era stato sbrigativamente, direi più brutalmente che sbrigativamente, sottratto in Spagna, con un'autorità giudiziaria che davvero si è comportata in modo, a mio avviso, mi prendo la responsabilità di ciò che dico, inqualificabile. Meno male che in Italia, fra i tanti difetti, abbiamo invece trovato due procure, quella di Genova e quella di Arezzo, che si sono date da fare, che hanno evidenziato, hanno visto quelli che erano poi elementi che fin da subito avrebbero meritato tutt'altra attenzione in Spagna, attenzione che in Spagna non c'è stata e viceversa per fortuna in Italia vi è stata. Avvocato, questi due rinviati a giudizio si chiamano Luca Vanneschi, che è un piccolo imprenditore, e Alessandro Albertoni, che è uno studente universitario, tutti e due hanno 29 anni, sono di Arezzo e sono appunto accusati di tentata violenza sessuale e di aver provocato quindi la morte di Martina Rossi, che avevano conosciuto il giorno prima, in conseguenza a un altro reato, il tentativo di stupro. Cioè i magistrati hanno ricostruito la vicenda parlando proprio di un tentativo disperato di lei di scappare, no? Sì, è corretto. La ricostruzione dell'accusa poi nella sostanza è molto semplice. Questa ragazza si ritrova a dover bussare alla porta dei due aretini perché la stanza dove alloggiava con le amiche era impegnata dalle amiche di lei che si intrattenevano con altri due ragazzi di Arezzo, e quindi trovandosi di troppo nell'imbarazzo pensò, e questa è stata diciamo purtroppo una scelta tragica, pensò di andare dagli altri due aretini. E sostanzialmente la ricostruzione della procura, condivisa ovviamente dall'accusa privata, cioè dal collega Savi e da me, è che nella stanza vi sarebbe stato un tentativo di aggressione, più o meno tentativo, poi vedremo nel corso del processo se si tratta di una tentata violenza o di una violenza consumata. Ad ogni modo la ragazza traumatizzata da questa tentata o consumata violenza, oggi ad onor del vero devo dire che è individuata nella forma tentata, è qualificata come tentata, avrebbe cercato di scappare portandosi nel terrazzo, e nel tentativo di scavalcare il terrazzo, perché deve sapere che la struttura dell'hotel e i terrazzi erano adiacenti l'uno all'altro e c'era una risega per cui era anche abbastanza facile scavalcare, se non che senza occhiali la ragazza aveva una forte miopia, priva degli occhiali e traumatizzata per quello che ovviamente era appena accaduto, ha perso l'equilibrio nel tentativo di scavalcare ed è precipitata. Questa è la ricostruzione che fa l'accusa, sia pubblica che privata. Avvocato Fanfani, quindi il processo si celebrerà il 13 febbraio ad Arezzo e speriamo finalmente che Martina Rossi e i suoi genitori possano avere giustizia, si possa giungere alla verità, certo dopo 6-7 anni questa cosa, tra l'altro. Sì, dopo 6 anni, perché vede, non è facile riprendere le redini di una vicenda in Italia quando tutte le prove che avrebbero potuto essere acquisite in Spagna non lo sono state. Lei pensi che in Spagna è stata svolta un'autopsia dando per scontata la natura suicidaria del decesso e quindi i vestiti sono stati buttati, per cui uno degli elementi classici di prova, le tracce di DNA o di altra natura, nei vestiti non le abbiamo. La stessa Salma non è stata vista come la si guarda quando si ha in mente un'ipotesi di aggressione, e quindi è stata fatta la classica autopsia di una paginetta e mezzo che si fa nel caso in cui sia pacifico il suicidio. La stanza dei due ragazzi, da non credere, è stata rioccupata il giorno stesso, quindi nessun tipo di accertamento è stato fatto, abbiamo solamente qualche fotografia della stanza dei ragazzi. Ciò nonostante vi sono tutta una serie di elementi e già acquisiti in Spagna e successivamente nel corso delle indagini in Italia che portano oggi un giudice, il giudice dell'udienza preliminare di Arezzo, a ritenere che vi sia un quadro consistente a carico dei due ragazzi. Cose gravissime in Spagna, speriamo che si ponga rimedio qui in Italia. Grazie avvocato Luca Fanfani e buon lavoro. Grazie a lei, grazie, buona serata. Abbiamo la pausa, sì, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, dove siete? Al posto giusto e nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora, abbiamo già trattato molte notizie, molti fatti, riassunto della giornata, ogni tanto sapete che vi ricordo i fatti principali, abbiamo parlato degli sviluppi nell'inchiesta della tragedia di Rigopiano e poi ci siamo anche occupati di questa svolta che c'è stata nella vicenda della morte di una ragazza genovese di 20 anni che era precipitata nel 2011, il 3 agosto 2011, da un hotel a Palma di Mallorca. Era stato archiviato dai magistrati spagnoli come un suicidio, poi per fortuna quasi 7 anni dopo i magistrati italiani hanno riaperto il caso, hanno valutato tante cose e ci sarà un processo che parte il 13 febbraio a due ragazzi che lei, italiani di Arezzo, che aveva conosciuto il giorno prima, e pare che lei stesse scappando da un tentativo di stupro proprio da parte di queste due persone conosciute il giorno prima. Adesso invece cambiamo tema, ci sono naturalmente altri temi. I vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore: Bruno, spero che i segnali radio anomali registrati in Giappone non siano attribuiti al sottomarino argentino scomparso del quale non si sa più niente. In realtà, Bruno, gli ultimi aggiornamenti sono che il sottomarino è imploso, sicuramente non c'è più speranza per i 44 membri dell'equipaggio, c'era una sola donna, un ufficiale di marina, e c'è stata un'infiltrazione che ha fatto un cortocircuito ed è imploso, e si era parlato di un restauro che aveva subito questo sommergibile 2 anni fa, molto rischioso, era stato tagliato in due, erano state fatte delle cose un po' strane, insomma, che se non erano fatte con tutti i crismi potevano davvero causare una cosa come poi quella che è successa purtroppo. Adesso però vi ricordo i titoli principali e poi passiamo al prossimo tema. Corea del Nord, Kim Jong-un torna a sfidare il mondo, lancia un nuovo missile balistico. Poco fa gli Stati Uniti dal Pentagono hanno detto che si tratta di un missile intercontinentale. Poi la manovra economica, il bonus bebè diventa stabile ma dimezzato a 40 euro al mese nel 2019, via il super ticket per i redditi bassi. Il dibattito sul biotestamento, scoppia la polemica sulle parole di Salvini che ha detto: mi occupo dei vivi non dei morti. Molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che potete andare a leggere se volete. Insorge il PD e Di Battista dei 5 Stelle dice: la legge serve ai vivi, si può fare in 5 minuti. La tragedia di Rigopiano, abbiamo parlato nelle intercettazioni dopo le richieste d'aiuto, risate al telefono un'ora prima del disastro e una battuta: c'è la spa, allora facciamo il bagno. La maxi operazione a Ostia e poi la studentessa che morì a Mallorca, ne abbiamo appena parlato. Calano ancora le nascite in Italia, in 8 anni 100.000 in meno, matrimoni però di nuovo in ripresa. E abbiamo qui il nostro Dario Ricci, caro Dario, che ci deve parlare di un sacco di cose che riguardano il mondo del calcio. Malagò, presidente del CONI, che dice: in Lega non si risolve tutto con un nome, devono ancora decidere, insomma, se commissariare la Federcalcio, che fare dopo le dimissioni di Tavecchio, del CT della Nazionale, ancora sono un po' in subbuglio. Beh, situazione un po' complessa e per questo mi prendo qualche istante in più per spiegarla. Domani la Lega Calcio prova ad eleggere il suo presidente, Lega Calcio che è commissariata ormai da 7 mesi dopo le dimissioni dell'ex presidente Beretta, commissariato proprio da quel Carlo Tavecchio, il commissario è proprio Carlo Tavecchio, quel Carlo Tavecchio che si è appena dimesso dalla presidenza della FIGC. Perché è importante che la Lega Calcio di Serie A, che riunisce tutti i club, che quindi gestiscono soprattutto il malloppone dei soldi dei diritti TV, abbia una propria governance? È chiaro, perché deve avere anche un indirizzo politico l'attività di questi club, e poi dal punto di vista dei club avere una governance, una struttura direttiva permetterebbe loro di consolidare la posizione nel consiglio della Federcalcio, e quindi evitare così, allontanare la possibilità di un commissario straordinario di nomina da parte del CONI. È un gioco un po' complicato, mi rendo conto, ma semplicemente perché il calcio non vorrebbe un commissario esterno che chiaramente avrebbe una certa autonomia, sì, e avrebbe meno accortezze, forse sarebbe anche un bene per tanti aspetti, sì, però, per parte si dice, no? Sì, distaccato esattamente. Il nome che gira adesso che oggi ha dato una sostanziale disponibilità è quello di Giuseppe Vegas, il numero uno della Consob, che è in scadenza il 15 dicembre, uomo di centrodestra con ruoli importanti di viceministro dell'economia e delle finanze in un governo Berlusconi, e quindi è sicuramente figura autorevole, ma al tempo stesso anche quasi una diretta emanazione del mondo della politica, quindi ci sono dei pro e dei contro. È un uomo anche gradito a Lotito, che è un po' il deus ex machina delle iniziative della Lega Calcio di questi ultimi anni, con risultati alterni, insomma. Quindi è una partita politica che è iniziata sempre qua a San Siro, quel maledetto 0-0 con la Svezia. Ci ritorniamo, Dario. Prendiamo un attimo, sentiamo gli aggiornamenti per chi viaggia, appena possibile, così poi dopo torniamo a parlare anche delle altre cose, di Gattuso, del Milan. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, c'è sempre Dario Ricci qui in studio che ci stava raccontando degli sviluppi per quanto riguarda la Federcalcio, le manovre politiche, il desiderio di autonomia, però dall'altra anche la necessità di una persona terza, super partes. Sicuramente, anche perché, come ha sottolineato anche il presidente Malagò, il dato importante non è tanto e solo che la Lega Calcio elegga il suo presidente, ma anche tutti gli altri ruoli, a partire dall'amministratore delegato. Anche qua ci sono delle candidature, ma insomma è chiaro che nel momento in cui la Lega si riunisce in assemblea elettiva deve riuscire a produrre, sarebbe l'ideale, tutto insieme, tutta la squadra pienamente operativa e legittimata dal voto, in modo tale che possa diventare immediatamente operativa, appunto. Quindi è una partita politica che tra l'altro vede anche divisi molti club. L'assemblea di lunedì scorso è stata particolarmente lunga e conseguentemente anche incandescente, soprattutto i big come Inter e Juventus, in questo caso si trovano sulla stessa sponda, non vedono di buon grado l'eventuale arrivo di Vegas, e quindi la partita è assolutamente aperta, Roberta. Tra l'altro oggi vale la pena sottolineare che Malagò ha anche preannunciato che per il prossimo anno ci sarà una limatina ai fondi a disposizione della Federcalcio, che avrà 2,6 milioni di euro in meno rispetto... Tutti al risparmio, persino il calcio con tutti i miliardi che girano. Sì, ma in realtà, allora, Malagò è stato anche bravo a non rendere più pesante questa limatura, perché comunque si tratta di super giù di un 8% dei fondi stanziati annualmente a favore del calcio, e inevitabilmente sono fondi che poi vengono ridistribuiti alle altre federazioni. Perché? Perché il calcio paga il flop mondiale, quindi inevitabilmente il prossimo anno farà attività federale per alcuni aspetti. Non è che tagliano ancora sulle donne, che sai che sono sempre penalizzate. Tra l'altro sì. Ha vinto in Portogallo una partita importantissima. Loro stanno facendo le partite per le qualificazioni mondiali, no? Il calcio femminile. Che da vecchio, con tutti i suoi limiti, mi avevi spiegato una volta che invece... Invece un po', è stato uno dei punti forti della politica di Tavecchio in questi anni. Però chiaramente il calcio, avendo questo flop mondiale, avendo una scarsissima proiezione olimpica, perché la qualificazione alle Olimpiadi è sempre vissuta come una iattura dal nostro football, ecco lì che inevitabilmente è necessaria e logica una redistribuzione per quelle federazioni che invece hanno nelle Olimpiadi, e abbiamo quelle invernali ormai alle porte in Corea del Sud. Quando sono? Dal 9 al 25 febbraio a Pyeongchang, a 80 km dal confine nordcoreano. Quindi, insomma, arriverà mica qualche missile balistico. Portate degli ombrelli, voi che andate. E il caschetto da muratore. Dario, allora, conversiamo ancora un po', perché dovevamo avere un ospite che è piuttosto in ritardo. Starà vedendo la Coppa Italia. Magari Coppa Italia, perché che partite ci sono? C'è Sampdoria-Pescara, con la Sampdoria che è in vantaggio 2-0, e nel pomeriggio, tra l'altro, risultati a sorpresa, perché addirittura il Pordenone ha vinto a Cagliari per 2-1 qualificandosi, ora affronterà l'Inter. Pordenone-Inter? Sì, a San Siro tra l'altro, quindi insomma comunque il Pordenone è già una vittoria, così come il Cittadella ha eliminato... Cittadella di dov'è? Squadra Veneta. Sì. Ha battuto per 2-0 la Spalla a Ferrara, e quindi si è qualificata al turno successivo, quindi insomma... serie minori che si stanno difendendo però, alla grande. Con certa dignità. Invece andiamo al Milan. Vogliamo sentire Gattuso. Gattuso, sapete che è stato esonerato Montella, l'allenatore del Milan. Al suo posto arriva Rino Gattuso. Sentiamolo. Io ho avuto un grandissimo rapporto con Vincenzo, un rapporto onesto, sempre grande disponibilità da parte sua, sia con lui che con il suo staff. E sicuramente la metodologia e il modo di vedere il calcio sicuramente è un po' diverso, nel senso sui concetti. Vincenzo ama il calcio partire da basso, gli piace il palleggio, anche a me piace il palleggio, però dopo un po' dobbiamo gli ultimi 20-30 metri andare a verticalizzare, andare a creare qualche movimento con gli attaccanti e provare a sorprendere un po' gli avversari. Quindi che dici, Dario? Ci piace Gattuso. Io lo trovo, devo dire dal punto di vista umano, le volte che l'ho visto quando era calciatore, cioè, lo trovo un po' troppo macio per i miei gusti, un po', certi calciatori un po' più evoluti, diciamo, no? Devo dire che poi i contenuti nelle dichiarazioni di Ringhio non sono mai mancati, persona assolutamente schietta, franca, capace, quindi diciamo la cornice c'è, adesso deve esserci il quadro, perché non si può dire che altri ex milanisti come Brocchi, come Inzaghi, come Seedorf, che hanno fallito in queste stagioni al Milan, non avessero degli ottimi prerequisiti. Quindi insomma adesso deve parlare il campo. Certo, ecco, non è uno che si intimorisce al boato di San Siro, perché lo conosce talmente bene. Grazie Dario Ricci, vedremo se la sua nobiltà si parrà in campo. Grazie Dario, adesso ci colleghiamo invece con gli Stati Uniti. Dove c'è il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, caro Marco, perché qui volano missili. Ciao Marco. Ciao, volano missili, sì. Il Pentagono ha detto che può essere quello che è lanciato da Pyongyang un missile intercontinentale, quindi ha veramente intenzione. Sì, i segnali sono che la Corea del Nord ha ripreso, diciamo, le sue provocazioni, ha lanciato un missile che, stando ai dettagli emersi, appare un missile balistico intercontinentale, ha volato per circa 50 minuti, 1000 chilometri, e si è poi inabissato nel mare del Giappone. Quindi diciamo i dettagli lasciano pensare al comando americano del Pentagono, North American Aerospace Defense Command, che si tratti appunto di un nuovo significativo esperimento di missili intercontinentali da parte della Corea del Nord. Il missile è partito da Saimi in Corea del Nord, anche se ha precisato il Pentagono il lancio di questo missile non pone, ha detto ufficialmente il Pentagono, una minaccia per il Nord America, per i territori o per i nostri alleati, così il portavoce del Pentagono. Detto questo, però, il segno in termini di nuova escalation della tensione e di potenziali ulteriori rappresaglie, è chiaro, e quindi la preoccupazione sale anch'essa. Marco, quindi da questo punto di vista, vabbè, dice Trump, non c'è rischio per gli Stati Uniti, però ho visto che invece dalla Corea del Sud stanno facendo delle esercitazioni, si stanno preparando, anche il Giappone naturalmente è molto preoccupato, no? Trump, certo, perché sì, scusa. Sì, no, assolutamente, sì, la mobilitazione, diciamo, sia a livello di preoccupazione politica e militare del Giappone, sia tanto più in Corea del Sud, vista la prossimità con la Corea del Nord, diciamo, la tradizionale timori di escalation delle possibili ripercussioni. Certo, in questo momento la tensione è salita immediatamente in Corea del Sud in termini anche di preparativi e esercitazioni. Senti Marco, ma ultimamente le dichiarazioni di Trump, si era un po' dimenticato della questione, aveva cercato di metterla un po' da parte fino appunto che non ci fosse stato un altro segnale guerrafondaio del dittatore nordcoreano. Sì, era apparsa, diciamo così, così rimane un po' sullo sfondo, no? Dopo il lungo viaggio asiatico di Trump, in cui lui aveva cercato di rivendicare successi anche diplomatici in termini di isolamento della Corea del Nord, e quindi diciamo nel rivendicare questi successi, diciamo più a parole che di fatto, poi come hanno detto gran parte degli analisti, ecco, aveva cercato di lasciare in disparte quella che poi rimane di fatto l'irrisolta crisi nordcoreana. Infatti, ecco, scusa se ti interrompo, Marco, dice adesso Trump, è arrivato a un dispaccio di agenzia proprio in questi istanti, dice ce ne occuperemo, questo è il primo commento di Donald Trump, ecco ce ne occuperemo, quindi bisognerà capire. E a questo punto deve tornare, diciamo, a dire qualche cosa, proprio perché era rimasto un po' silenzioso negli ultimi tempi, ma da qui a dire che abbia in mano una soluzione politica, diplomatica, certo, o tanto più militare, ne passa, perché diciamo appunto la strategia americana resta confusa, appunto la strada maestra per quanto è rimasta quella dell'isolamento politico, delle pressioni, delle sanzioni, diciamo chiaramente non hanno un esito immediato questo tipo di azioni, e Trump ha sempre mantenuto aperta, ha voluto mantenere aperta anche così l'opzione almeno in teoria militare, pur lasciandola secondo piano, ecco, non ci sono segni che adesso, dopo questo ennesimo lancio missilistico per il Pentagono, per l'amministrazione Trump, la situazione si sia semplificata o che abbia improvvisamente trovato la soluzione, una soluzione alla crisi. Grazie a Marco Valsani dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie, buona giornata, visto che più o meno a metà giornata. Noi invece ci sentiamo tra poco per chiudere alle 22.